aspetta, la moglie del Postiglio. La buona anima di Beatrice. Beatrice, ha detto bene, tu che li hai conosciuti tutti. Quante erano? Quante sorelle erano? C'era la Tiziana, Lorena, Valerio e poi altre ne avevano le sorelle. Boh, non mi ricordo, presumo che fossero... presumo che le nominate tutte. Adesso, sì, Lorena è... Sì, più o meno le nominate tutte. No, riguardo a... A Simona me la ricordo, era di Holiday. Mi ricordo una voce maschile faceva, ti parlo di un sacco di anni fa, Radio Giovane, un programma notturno, una voce maschile, adesso mi sfugge il nome, come al solito, cazzarola, me lo ricordo, ve lo dico. Molto interessante, persona super preparata, voce proprio bella, classica voce, bella profonda, molto, molto ascoltabile, molto alla radio, però adesso cazzo mi sfugge il nome, mannaggia, cazzo, ce l'ho sulla punta della lingua, non ho, sai quelle cose che ce le hai lì per lì e però non ti vengono fuori. Vabbè, apro una piccola parentesi, Gianni, ma c'hai una ventola vicino, qualcosa del genere, perché sento un soffio, insomma, un rumore di ventola. Sì, la ventola dell'alimentatore. Gianni, un profeta, non stai dicendo Gianni Devi. Cosa stavo dicendo? Vabbè, poi nel corso degli anni più o meno un po' di gente l'ho conosciuta, che ha lavorato lì a Radio Giovane, dai. Perché poi molta gente è passata alla TV e quindi sai, se non li ho conosciuti direttamente in radio, li ho conosciuti perché si sono spostati in televisione, perché poi sai, c'era anche la storia del Video Giovane, poi Anisara Duduttu, perché c'erano insomma un po' di casini lì all'epoca, insomma, camuffi, segnali ritrasmessi a livello abusivo e quant'altro. Ma sta dicendo Gianni Davis per caso? No, negativo. No, non era lui. Era un programma, era uno dei programmi trainati, Video Giovane, la notte, la sera, ora tarda. Cazzo, mi sfugge il nome, mannaggia. Vabbè, se me lo ricordo ve lo dico. Io lo ascoltavo, ma non mi ricordo il nome. Sono passati troppi anni. Io lo ascoltavo, mi mettevo le cuffie e ascoltavo la radio di dopo. E tu ricordi Tony G, Nerone, conosciuto? No. Cacchio, non mi dire che non avete conosciuto a Nerone. Chissà quanti dischi hai comprato già. Ascolta, ma è possibile, vi rievoca qualcosa il nome Jonathan? Mix by Jonathan, c'ho ancora le cassette, a voglia se mi rievoca qualcosa. Ok, beh. Un nome è saltato fuori. Ma Jonathan non c'entra niente con Radio Giovane, i primi programmi mixati, e c'era ancora le cassette, l'ho fissato con Mix by Jonathan, era un inglese, si chiamava, non mi ricordo, c'ho anche i dischi fatti da lui, mixati, delle compilation. Ho capito, ma adesso mi è saltato fuori questo nome così, cioè rievocando, facendo memoria mi è saltato fuori questo nome, però cazzo, quello che sto dicendo io non è Jonathan, è un altro, mannaggia cazzo. Ma mi dimentico, molte volte mi presentano gente, dopo 10 minuti me le dimentico, cazzo, quindi figura di tu, ma la faccia magari non la dimenticherò mai, però sai, il nome è un casino. Non è che sia Bacchigio per caso? No, negativo, no, che poi l'ho conosciuto, no, è lui già. Bacchigio era Radio Zero, a Contro Zero Giornale lo davano la domenica a mezzogiorno, non so se ve lo ricordate. Ma possibile non vi ricordate di Tonino Fiori, Tony G, con lo sacchetto che aveva? Dove trasmette? Cacchio, a Radio Giovane, era una delle voci più famose, lui e Leonardo erano i capibanda. Tonino Fiori, noto Nerone, discoteca Goody Music, ex Grishenko. Tu sei il Ponciarello? Ponciarello, di tu. Quello è un grande speaker e un grande anche mixato, molto bravo. Non sa quello che fa lui, nei tempi che furono. Quando ancora è sotto il grattacielo vecchio. Io lo conosco molto molto bene, siamo molto amici con Tonino, come si chiama, lui lavorava come dipendente di Grishenko, eppure ha rilevato lui l'attività. Mi ricordo. Poi vabbè, ho iniziato a essere un po' più esigente con la musica e quella che piaceva a me ne arrivava poca e quindi piano piano mi sono spostato, dai. E cosa? A Patti, ve la ricordate, dice? Patti? Boh, il nome non mi è nuovo, dove... in che radio lavorava? Allora, ha iniziato a coso? A Radio Alfa, non so se ve lo ricordate, Radio Alfa, una bella radio, c'aveva gli studi in Viale Dante, vicino all'edicola, era dell'Alfa Lum, l'avevano chiamata Radio Alfa, e poi è andata a lavorare a Radio Ulide, bravissima speaker, molto ascoltata e seguita, una bella donna lo stesso. Adesso RDS. Radio Telefinsa, che era la radio più professionale quando è uscita, che va via una manerea di soldi, però è durata poco e avevamo fatto anche la televisione. Io ho conosciuto dove c'era Gianni Garrusu, che poi è andata alla RAI, eccetera, eccetera. Dei professionisti erano l'unica radio dove c'erano professionisti di giornalisti, c'erano la cosa giornalistica, la relazione giornalistica, davano il radiogiornale, e poi avevamo fatto la televisione del direttore del coso di Bua, del Policlinico. Sì, io me la ricordo. Allora, premessa, negli anni, fine anni 80, primi anni 90, ho avuto modo di mettere mano a un po' di cassette che venivano da RTF, perché poi questa persona era riuscita ad entrare in possesso di alcune videocassette e ho trovato un sacco di spot pubblicitari, ho trovato dei svariati telegiornali e all'epoca avevo trovato svariati telegiornali registrati dove c'era GB Puggioni, figura di due. Poi alcuni giochi in diretta con Mauro Ru, che adesso lavora, credo, o sia freelance che collabora con Videolina. Poi avevo trovato delle videocassette dove c'era Scooby-Doo, il cartone animato, che veniva mandato regolarmente su RTF, e poi avevo trovato delle videocassette col telefilm di Chips, che praticamente per la prima volta li avevo visto su RTF. Allora, scusate se continuo io, RTF è stata la prima televisione veramente professionale, ma molto più professionale di qualunque altra televisione a livello regionale. Tutte quelle persone che mi hanno dato, GB Puggione, Mauro Ru, tutte quelle persone, poi sono andate a finire Gianni Garrucci, è stata la prima. Io quando sono entrato di dentro, siccome conoscevo un po' di gente, c'avevano la sala trucco, cioè l'unica televisione che io abbia mai visto, a parte la Rai e Mediaset, che quando dovevano fare il telegiornale o qualche trasmissione in diretta, c'era la sala trucco, c'era il truccatore, ti metteva un po' di trucco rosso, perché la televisione tende a schiarirsi. È stata la prima televisione privata a trasmettere in coso, a colori. C'erano delle apparecchiature spaventose, c'era una sala di regia da paura, e cioè inimmaginabile per tutte le altre televisioni della Sardegna. Non dico, Videolina non c'era ancora, non era ancora regionale, c'era solo a Cagliari. Dopodiché tutti questi, Mauro Ru è andato a TCS, Telecosta Smeralda, Radio Internazionale, e poi è andato a finire a Videolina, e GB Puggioni ne ha girato un paio e poi alla fine è finito a Videolina. Siamo molto amici, per quello che ve lo dico, perché li conoscevo, con le persone ci andavo. Ok, avanti di nuovo. Era una bellissima televisione, soprattutto attrezzature di altissima, all'avanguardia, di altissima qualità, era spettacolare dentro, cioè tutto un gradino più avanti degli altri. È durata poco, perché poi le spese, hanno investito un sacco di soldi e poi è andata a finire male. Avanti Gianni Dupio. Beh, vai Dupio. Io avevo avuto modo di vedere parte dell'attrezzatura di bassa frequenza, ero riuscito a vedere un mixer video, adesso mi sfugge la marca, forse era Panasonic, credo, o forse era marchiato National Panasonic, ma non mi ammetto. Due registratori tre quarti di pollice, U-matic, quelli erano Panasonic, me li ricordo ancora, erano enormi, con caricamento dall'alto verso il basso, erano due barrasoni. Poi mi ricordo di aver visto tre telecamere da studio con i vari dolli, col vario treppiede della Hitachi. Tre telecamere da studio a tubo con tutti i vari remottaggi, il monitor sopra, ottica da studio, baravì, baravanti, tutte cose. Poi poi qualche altra cianfrusaglia, comunque. E poi è un mixer audio che adesso mi sfugge la marca. Comunque avevo visto un po' di questa roba che era stata usata lì, dai. L'avevo vista da un'altra parte, non lì in funzione, era smontata, che era stata ceduta ad altri, dai. Sì, poi le hanno usate quelle Super TV, prima telettere, poi Super TV, Video Nord, hanno preso tutto, roba avanzata, ma quando ce l'avevano loro erano all'avanguardia come tecnologia, macchinari che costavano una barca di soldi, avevano fatto un investimento da paura, cioè questo forse voleva fare soldi, poi si è reso conto. Poi c'è stato tutto il discorso di invasioni di radio, di televisione e cose, poi la pubblicità non rendeva come rendeva, perché loro gli stacchetti se li facevano pagare, poi alla fine la gente diceva: io vado per dire a Radio Ulide, le pago un quarto di quelle che le pago da te. Vabbè, diciamo che è stato fatto, si sono lanciati a livello imprenditoriale, soprattutto con la televisione, poi praticamente si sono scontrati con la dura realtà del mercato, perché insomma un conto già Cagliari è diverso, cioè qua è negozi, piccole botteghe, artigiane, roba del genere, per cui certi prezzi non erano sostenibili, capito? Per cui ha giusto durato, è stata una piccola cometa, dai, è durata veramente, io mi ricordo a memoria, è durata veramente poco, poi ha fatto, vai, è sparita, dai. Sì, lo so, purtroppo, vabbè, poi c'è stata l'invasione dei network nazionali, ha iniziato prima Tele Monte Carlo, poi tutte le altre, Canale 5, Italia 1, Rete 4, eccetera, eccetera, e hanno iniziato a ripeterle i segnali, le private sono chiuse e poi sono partite, poi è iniziato Videolina che ha stracciato tutti, si è acquistato tutte le televisioni, il monopolio di tutte, ha iniziato da Orizzano in su, si è comprato tutte le televisioni, compresa anche tra le cose smeralde, alla fine c'è il monopolio. C'è stato il periodo di Sardegna 1, che poi anche quella sta mezzo morendo, non so come faccia a sopravvivere. È stata però, c'è da dire, la prima televisione regionale, una delle primissime, se non la seconda, la terza televisione nazionale a avere la trasmissione via satellite, SWTBIT. È stata la terza televisione nazionale, parliamo a parte di network, che aveva il canale trasponder occupato un canale proprio da Sardegna 1, molto prima di video lì. Vabbè, lì sono dinamiche, già lo sai come funziona, agganci politici, sovvenzioni, amicamenti, trick e track e ballacche, cioè, e quindi insomma, poi alla fine due galli in un pollaio, poi soprattutto lì a Cagliari. Comunque dai, dal punto di vista tecnologico e di, insomma, di come si dice, di approccio a livello tecnico, RTF è stata una bella televisione, è che era assolutamente, come si dice, era anche troppo, era troppo rispetto ai tempi. Vabbè, Sassari non si è mai meritata una grande televisione, anche perché poi, ti ripeto, ti devi scontrare con un mercato che poi era quello delle piccole realtà artigiane, piccoli negozi, non c'erano grossi marchi a parte i soliti notti, cioè, però insomma, e questo te lo posso dire visto che ci ho lavorato in televisione, quindi sai, dalla piccola officina, dalla piccola merceria, dalla trattoria, che di chi d'altro, sì, onorevoli tutti, rispetto per tutti, però sai, quando fai degli investimenti poi ci devono essere anche dei ritorni, e i numeri li fai solo quando hai alle spalle grossi nomi e grossi sponsor, se no praticamente ti affossi. Okay. Già nei doppio non ci sono. Ma la stessa cosa aveva fatto il passo troppo grande Mondo Radio con Coso. Ha fatto una cosa, all'epoca ha speso quasi un miliardo lui per fare, per coprire tutta la Sardegna, è stato il primo network regionale, ma aveva speso una barca di soldi tra ponti ripetitori, postazioni, attrezzature. Aveva fatto, è durato diciamo alla grande il primo anno, era come penetrazione di ascolto, era numero uno in Sardegna, poi è durata un altro anno così, poi ha avuto una fase calante, ha iniziato a togliere tutte le frequenze e a liberarsi, è rimasta un po' a Sassari e poi è finita. Lui è entrato a Cagliari con una potenza fuori dalla norma, a Sassari non ne parliamo, aveva tutti 9 ponti ripetitori a microonde che non ce li aveva nessuno all'epoca, parliamo negli anni 90, aveva speso una barca di soldi e poi è morto tutto, ci sono le attrezzature lampade ancora. Già me lo ricordo, mi ricordo Postiglione quando ne parlava, che già dall'epoca diceva che secondo lui era quell'operazione lì, era un volo di Icaro, cioè era assolutamente, come si dice, era assolutamente fuori portata, non, proprio perché secondo lui, e devo dire che col passare degli anni, con esperienze fatte mie, fatte a livello anche personale, gli ho dato ragione, cioè come si dice a Sassari, non vero tanto, capito? È inutile, infatti mi ricordo molte volte quando faceva delle battutine, no? Che diceva che praticamente stavano facendo il passo più lungo della gamba, cioè ok, questo è quello e quell'altro, ma poi cioè, quando ti fai i conti in tasca alla fine i conti non tornano, cioè aggiornare tu a fare fuochi artificio e tutte queste belle cose, però poi alla fine cioè, non, se quello che investi non rientra è solo praticamente aria fritta. Sì, ha detto bene, ma poi aveva potenze esagerate a Monte Oro, anche se non lo utilizzava a piena potenza, c'aveva 2,5 kW, la radio più potente ne aveva 500, per fare un raffronto, Radio Zero usciva con 130 watt, cioè stiamo parlando, è andato a Cagliari, ha attaccato 6 kW dentro città, più a Serpedì non so quanto ne ha piazzato, l'imbara non so quanto, ha riempito tutta la Sardegna di potenze esagerate, cioè proprio per dire cacchio siamo i più furti. E di lì quando inizia a spendere soldi in corrente, c'è una stazione da 6 kW 24 ore su 24, l'altra da 2 kW e mezzo, l'altra da 5 kW, ce ne sono soldi di corrente, solo di corrente, le spese erano abitudini, gli speaker erano pagati, non tanto però erano pagati, avevano dei rimborsi spese, poi le attrezzature oltre di pagare, anche se lui aveva avuto un grande contributo a fondo perduto, non so cosa gli avevano dato, però ha investito una barca di soldi, cioè cifre spaventose, già farle adesso, figurati farle prima. Vabbè, immagino. Doppio Room, ci sei ancora? Avanti, dai, non vogliamo far scappare nessuno, ci sei? No, non sto scappando, sto ascoltando, mi fa piacere anche ascoltare, infatti come ci ho mangiato un pacco di biscotti che c'avevo la bocca amara. No, io mi ricordo questa radio popolare, ve la ricordate? E certo, era di Amica, ve la ricordate, radio alternativa, ve la ricordate? Sì, c'era Mary, l'amica mia. Ma dove, era di Amica o dove? A radio alternativa. Era il diario Umberto. No, ti stai confondendo. Radio Alternativa era in via Roma, Radio Amica era in via Umberto, che ce l'aveva quello Mirko Addis, c'era quella di destra e quella di sinistra della radio. Radio Alternativa era sponsorizzata da Fusaro, era di destra assoluta. Lo so. Mi aveva dato l'attrezzatura, c'era Radio Amica 1, 2, 3, era mezzo pizzicato, poi il figlio, il padrone, diceva, se raccontiamo un particolare li lasciamo perdere, non mi vale. Io le radio private le ho conosciute tutte, perché ero super appassionato e poi ci frequentavo, ci andavo, proprio mi appassionava, ma da ragazzino di 13-14 anni parlo, le conosco tutto, so vita e miracoli di tutte le radio, chi c'era, chi non c'era, perché l'ho avuta anche io nel mio piccolo, una piccola stazioncina, e conosco tutti i trucchi e i segreti, ci sono tante cose. Chi è che aveva una grande radio, forse l'hai conosciuto tu, che poi è morto, che c'era il giornale Sassari Sera, te lo ricordi tu Gianni Brofè? Porquedo? Per quello, non per quello, come si chiama, in Viale Adua. Tu stai dicendo Radio Sassari Centrale? No, Radio Sassari Centrale. Aspetta che ho, sto facendo confusione con dei cognomi, dai. No, quella che stai dicendo è in Piazza Italia, aspetta, aiutami. C'è Radio Popolare. Come? Ho detto, c'era anche Radio Popolare. Sì, allora, Radio Nord Sera, la sede ce l'aveva il coso, in Viale Adua, ed era un grandissimo giornalista che faceva il giornale Sassari Sera, che l'hanno anche cercato di ammazzare tante volte, anche questo qui era un po' di destra, io non sono di destra e di sinistra, sto parlando solo in generale, se qualcuno ascolta, non ce n'ho né con uno né con l'altro, perché parto dal presupposto che la politica vogliono tutti messi a rogo, tra parentesi, almeno negli ultimi 30-40 anni, magari forse nel periodo di coso di Mazzini, forse la politica era diversa. E quello lì c'aveva delle attrezzature allucinanti, non le ha mai messe in opera perché le aveva comprate, doveva fare sempre partire questa radio e trasmetteva su 102,9, ma teneva a bassa potenza, ma c'aveva delle apparecchiature da paura, però sempre aspettando a farla partire, e poi ha bloccato tutto e poi era morto. Come si chiama? Nino Caredo. Pino Caredo. Ho capito, sì, faceva per un po' di tempo, faceva, chiamavano una striscia, un editoriale su Antenna 1, ma ti parlo di anni fa, sì, che poi era, c'era quella testata in Sassari Sera, sì, mi ricordo. No, io sto parlando di Porquedo, l'altro, che era sempre legato ad un altro giornale, adesso mi ricordo, non era un quotidiano, era forse un settimanale, cazzo, mi sfugge il nome del giornale. Mi ricordo che lo studio era nei pressi di Piazza Italia. Sì, ho capito benissimo. Radio Sassari, no Sassari, no Sassari International, era l'altra. Radio, allora, Nord Sera, Radio Sassari Centrale, e lui era Enrico Porquedo, e poi c'era spostata poi in Piazza Fiume pure. Ok, Enrico Porquedo, sì, non mi veniva il nome, sì. Perché avevo avuto occasione, anni or sono, di intervistarlo, poi aveva fatto qualcosa, mi ricordo, di molto fugace a TeleG, ma niente di che. Radio Amica era di Mirko Addis, che aveva l'Istituto Europa, infatti poi aveva abbracciato l'esperimento di Luna TV, dove io ho lavorato, anche se è stata anche lì una cometa. Non ti dico che cosa c'era per le attrezzature, perché lasciamo perdere, però è stata una bella esperienza, dai. Sì, dove c'era l'Istituto Europa, al piano di sopra faceva, c'era gli studi di trasmissione di Radio Amica, aveva fatto addirittura tre canali, cioè aveva 2,5 kW quello di potenza, esagerata, proprio potenza, vabbè, non la utilizzava appena a potenza, però trasmettitore arrivava a 2,5 kW. Però erano radio sporadiche, anche se qualche ascoltatore, c'era il figlio che trasmetteva di Mirko Addis, non so se si trova ancora, non lo so, ma ti ripeto, poi c'era Radio City Corporation che era giù al corso, Radio Oasis che c'era la Tedoce, Radio, che cacchio c'era, vabbè, poi c'era, parlo di quelle un pochettino più importante, Radio, quella di Arghito, come si chiamava, Radio Sound, tra le cose, no, Arghito non aveva Radio Sound, aveva Radio, non me lo ricordo, Radio Popolare. No. Arghito era in via Cosa, in via Turatti, e lui vendeva, riparava cose, c'era una specie di laboratorio piccolino, e sopra si aveva messo l'antenna. Come si chiamava quella radio? L'ho letta anche da poco, perché c'era l'elenco di tutte le radio dell'epoca, stavo leggendo la storia, ho fatto degli interventi, si è parlato un po' di tutto. E poi chi cacchio c'era di radio? Vabbè, quelle lì erano le principali. E Radio Popolare c'è stata un pochettino, ma c'era il periodo quando c'era la contestazione tra comunisti e Almirante e cose, Berlinguer. Uno c'era Radio Alternativa, dove c'erano, li aspettavano la notte, li tentavano, si chiudevano, sono stati 4-5 giorni chiusi dentro la radio, gli speaker, perché se uscivano fuori li picchiavano, vicino a coso. Ma cacchio c'era, in via Roma dove c'era il bar Silvio, perché Silvio era lo stesso di destra, anche Postiglione era di destra, il padre. Sì. ti stai dicendo Sassari Radio di Arghittu. Sassari Radio, non mi veniva il nome, cacchio. Anche quella lì nel piccolo, già era ascoltata, era tutta registrata, è stata una delle prime che non aveva programmi in diretta, proprio quelli non aveva nessuno speaker, era solo registrata, e davano le canzoni sassarese la domenica e un po' qualcuno l'ascoltava. Ma non è vero, c'era Luigi che trasmetteva, un amico mio. Sì, è stato trasmesso quello lì, Luigi, cioè, me lo ricordo, lavorava da lui, se me lo ricordo bene, però pochissimo lavorava, cioè ti faceva una trasmissione di un'oretta e poi avevano chiuso completamente, era tutto registrato. Poi quelle trasmissioni in Sassalese li faceva uno che poi è morto, per quello poi l'hanno mandato registrazione, e portava avanti uno che è morto, se non mi ricordo come si chiamava, Paolo mi pare. Cristoforo c'era di lì che lavorava. Oh, quello che è morto, che faceva le canzoni di Sassari, si chiamava Paolo, mi pare. Ti ascoltavo io la mattina, la domenica, io ero molto amico di Luigi, andavo anche, sono andato anche dentro, non c'era nulla di radio, era praticamente un magazzino dove trasmetteva. Sì, per quello ti sto dicendo, non c'avevano niente, non si poteva neanche chiamare, più che altro trasmettevano in registrata, sopra c'avevano l'antenna, all'ultimo piano, da lì, ma diciamo già era abbastanza ascoltata come radio di musica folcloristica, diciamo, in cosa in dialetto sassarese, la domenica era molto ascoltata, poi la mattina durante il giorno davano canzoni, diciamo, di gente di altra generazione prima di noi, già, diciamo, gente che adesso ha 70 anni, era molto ascoltata come quel circondario. Poi c'era Radio Prisma, la ricordi? La stanno registrando, sai, di nuovo Radio Prisma in web radio, Gianni Rubrofè. Ehi, aspetta che, allora, tu stai dicendo Paolo, di Sassari Radio, Paolo, cazzarola, ci eravamo conosciuti, adesso non mi ricordo se lì a Sassari Radio o in altre circostanze, che poi avevo provato anche a fare qualcosa in televisione, vabbè, usava anche, cioè usava, mi era capitato di vederlo in alcune manifestazioni di folk sassarese, presentare rassegne musicali in giro per Sassari. Adesso Paolo, mannaggia, ragazzi, forse, sicuramente, adesso ho dei ricordi molto vaghi, però mi ricordo che aveva fatto qualcosa anche a TeleG, però adesso mi sfugge il cognome, dai. E comunque faceva musica sassarese, la domenica la faceva, poi avevo saputo che era morto, da Luigi avevo saputo che era andato in paradiso, e quindi avevano messo la musica così registrata e basta. Poi c'era, che era simpatico, Rus Paolo, che si chiama Paolo Pratto. Comunque questo Leonardo DG, lo conoscevate, quello che faceva Antena 2000 Show? Quello lì, Leonardo Zanza, certo che lo conosco, gli ho dato delle attrezzature io. Io ho i nastri ancora, delle registrazioni che facevo, perché mi divertivo a registrare i nastri, delle canzoni che mi piacevano, e ho messo lo stacchetto mentre stavo registrando, c'è ancora lo stacco. Ma te vedete, quello è venuto negli anni 2000, molto in ritardo è venuto, è un appassionato, ha iniziato così, poi un pochettino ha migliorato, ci ha chiuso completamente perché era in perdita, assolutamente in perdita con la radio, e c'ha ancora il ponte ripetitore con tutte le attrezzature, ha rubato tutto, infatti non so se le abbia tirate via, ma era lo stesso anche lui, tutto registrato, non aveva niente in diretta. All'inizio, il primo anno, hanno fatto qualcosina, c'era anche il fratello, allora lui si chiama Leonardo, il fratello si chiama, ma non me lo ricordo, l'ho conosciuto di tutto perché gli ho dato, io avevo un multilettore a 10 cassette della mia radio per fare il non stop, gliel'avevo dato a lui. Paolo Giua. No, che Paolo Giua, ma di che radio stai parlando? Sassarese. No, ma non di Radio Antenna 2000, non c'era un Paolo, di Sassari Radio stai parlando? Sì. Non ce l'ho presente, non l'ho conosciuto. Luigi sì, ma questo Paolo non ce l'ho presente, forse metteva solo la musica, lui non parlava. Paolo presentava le canzoni. Poi lo stesso, anche se un po' adesso si è aggiustata un pochettino, ma la radio Surica, che è una delle più antiche ininterrottamente, che sta andando da 76, c'è Radio del Golfo, io non l'ho mai apprezzata più di tanto perché c'è poca professionalità, adesso magari un po' meglio, ma prima era, mamma mia, c'erano delle cose molto molto a livello casareccio, però c'aveva delle belle postazioni, c'ha Monti Alvaro 93.9, più c'ha una bella postazione all'Imbara da 77, 78, 98 su 98 e poi ce n'è un'altra nella zona di Olbia, c'è una bella copertura della provincia di Sassari, c'ha tre belle frequenze con tre postazioni ed è una delle pochissime radio, oltre che la RAI e RDS, che c'ha la postazione a Monte Alvaro, perché non ne danno a nessuno e lui da quella postazione copre tutto Alghero, tutta la zona di Sassari e tutta la zona Castelsardo eccetera eccetera, l'Anglona e più c'ha quella dell'Imbara, c'ha un'ottima copertura quella radio senza avere potenze esorbitate. Adesso vabbè, ha aumentato le potenze, ma prima c'aveva un trasmettitore da 500 watt e copriva una marea di superfici. C'era un pillo che ha portato, si girava sempre le scomposte con l'antenna in movimento cercando di essere radio private, roba del genere. Sì, ma adesso ormai ci sono apparecchiature di assolutamente qualità, prima c'erano apparecchiature quartzate, c'erano drittamente di frequenza, tu dovevi seguirla molte radio di quelle ladridici che si spostavano in frequenza, sblatteravano, cioè c'avevano larghezza di coso, la defasi troppo larga, cioè era tutto un problema, perché per farsi sentire si sentivano molto larghe, tu come legge non devi superare 75 kHz di deviazione da una parte e dall'altra, che anche Madrid c'era la gente ne aveva 150, per cui oltre di andare per dire 89,5 la prendevi anche a 5,30, 5,40, 5,50, quasi 100 kHz di coso, erano tantissimo per farsi sentire belle larghe, sintonizzate bene, poi tutti i limiti di coso, di sovramodulazione, tipo la radio come noi facciamo microfoni amplificati, quelli uscivano troppo sature per cercare di farsi sentire e non c'era stereofonia, non era nulla, per cui uscivano un bel suono. Ma io conosco gente, cacchio, che si bischippiava, noi quando c'era la radio di giù, dalla parte giù dalle Conce, che si affarrava con radio di Postiglione, perché dice quando scendevi giù annientava Radio Venere. Io me lo ricordo quel particolare, almeno del Golfo io conoscevo Luciano Di Fraia, uno solo ne conoscevo, non so se poi gli altri li conoscevo, però non so chi ci trasmetteva, ma Luciano lo conosco perché veniva al Passi a mettere musica e mi ricordo che una volta stavo ballando, ha detto la coppia numero uno, Gianni con Eliana, che se cazzo, guarda la figura che ci ha fatto fare. No, lui era molto sorpreso, credo che sia andato a Radio Venere dopo 50 anni, era una vita di lì. Ma poi c'è il padrone di Radio del Golfo che non vuole sentito, nel senso, la mattina lui mette musica tipo Carosone, quel genere lì, Beniamino Gigli, e diciamo il suo coso, gruppetto di ascoltatori già c'era, diciamo, un target molto molto grande di età, oltre a 70 anni, dai. E c'è gente che l'ascolta, c'ha una bella copertura, di buono c'ha quello, c'ha un'ottima copertura di segnale. Ed è la radio di tutte le presenti che sono attive, la radio più vecchia di tutte le altre, ce n'è stata qualcuno più vecchia, però hanno tutto chiuso, di quelle che dal 76 ininterrottamente sta andando c'è solo radio del Golfo, le altre sono tutte venute dopo, l'unica che è rimasta delle presenti è radio Venere, ininterrottamente Radio Zero aveva chiuso, poi ha riaperto, poi richiude, ogni tanto torna a fare qualcosa. Ok, Gianni Rubroffetta, avanti a te, saluto a Giulio che probabilmente è in ascolto. Avanti Rubroffetta. Ciao Giulio, no, ho sentito un'entrata, credo che Giulio ci stesse ricordando il cognome di Paolo Giua, se non erro, e mi sembra che fosse proprio Paolo Giua, sì. Poi cosa volevo dire? Mi sfugge, ma Radio Nova Source è ancora accesa? Sì. Sui 96.500 è accesa, 93.5 era adatto alla frequenza. L'altra radio che c'era ce l'aveva Vannino, hai capito? Ciao, salutando, saluti alla ruota da parte di Fabio, comunque, non capisco, forse non vuole entrare, no, un bel gente c'è in ascoltomi, già due di ascoltoni, ciao Fabio, ben sentito, ben ricevuto il messaggio, cosa hai detto Gianni? Ho detto che l'altra radio di Sorso ce l'aveva bandito, poi l'ha chiusa. E che radio c'era Sorso? E adesso non me lo ricordo, come l'ha detto proprio stasera, non me lo ricordo come si chiamava. C'aveva la radio a Sorso, era l'unico, c'era Radio 9 e la sua. Radio Oasi si chiamava, perché Radio Oasis era la latte dolce, o Radio Oasi si chiamava, sì. A Sorso, non la latte dolce. Quella di Sorso si chiamava Radio Oasi, mentre quella di Sassari era Radio Oasis, con la S finale. A Sassari c'era anche la discoteca. Sì, anche a Sotto c'è la discoteca Il Lupo Nero, ogni ambiente non ci doveva essere. Ok, cosa volevo dire? Ma è una domanda, Tonino Capasacchi l'abbiamo dimenticato o c'è ancora? No, ha chiuso, l'UFO Club c'era a Sorso, te lo ricordo. Sì, non ci sono mai andato, ma c'era anche Il Lupo Nero. Ok, no, ma guarda, le radio le conosco tutte. C'era una radio che io li facevo da ripetitore, un tipo fuori di testa di Porto Torres, non so se l'hai conosciuta, forse sì già, Radio Smash One. Sì, non la ricordo. Il padrone lo conoscevi? E chi era? OP si faceva chiamare, perché sinceramente non ho mai saputo il nome vero, perché tu si presentava come OP, così un amico mio si fa chiamare GB, cioè tu gli dici come ti chiami GB, di cognome non te lo dico perché sicuramente lo conosci, sempre Porto Torres, un ex poliziotto, e questo qua si fa chiamare, si presentava come OP, però se tu mi dici come si chiama, e io gli ripetevo il segnale, mi aveva dato lui un finale grosso, ci siamo messi d'accordo per un periodo, poi alla fine l'ho lasciato perdere, non era molto affidabile, era un tipo, non mi ricordo di che zona d'Italia era, ma forse napoletano, non mi ricordo. Sì, ma l'avevi accennato di quel poliziotto che conoscevi, che è andato in pensione. E io? Non mi ricordo perché cosa me ne avevi parlato, però mi ricordo che già me ne avevi parlato. Sì, vabbè, ma le radio no, per falsa modestia o per vantarmi tutte, tu mi puoi fare nome e cognome, frequente, mi ricordo tutto, anche adesso se tu mi dici dove c'è il ripetitore, cosa fa, che attrezzature c'ha, tutte quante, e così anche in network, io andavo a cercare il ponte ripetitore, a trovare, a sapere qual è il ponte di quello, andavo con un apparecchio, tipo come fanno l'escopo, a cercare la posizione di trasmissione, ma sai quanti divertimenti, questo è il ponte di coso, questo è il ponte di quello lì, quell'altro lì, mi divertivo troppo. Adesso vabbè, è abbastanza semplice, ma prima era bello andare in macchina, ti portavi, stavi con lo scanner e ricevi questo, quel segnale lì, questa e quell'altra. Ma prima c'erano un sacco di problemi, di disturbi, di cose. Dillomi, adesso ha fatto una battuta a Fabio, mi ha mandato il messaggio che rientrava il segnale il coso nella piastra di registrazione, che lui abitava vicino. Ma vabbè, a casa sua, a casa della mamma. No, mi mette in un altro QTH, ma lui abita vicino a quella radio che abbiamo detto prima, non facciamo noi che ci sarà gente ascoltando, comunque c'ho tanta ammirazione per quella radio che abbiamo nato poco fa, una delle poche che è rimasta ininterrottamente, anche lui qualche cosa l'ha fatta, dai, era una bella, la radio all'epoca era molto ma molto piacevole, c'era molto seguita, forse in precedenti invece anche più della televisione, perché c'erano pochi canali TV, c'era solo Rai 1, Rai 2 e boh, e poi è arrivata Rai 3 negli anni 78, 77 mi sembra che è arrivata, però all'epoca dell'inizio delle private c'erano solo due canali, il film lo davano soltanto il lunedì, per cui la radio ci ascoltava, mi ricordo quando ero bambino, la domenica, e anzi il sabato si ascoltava Radio Monte Carlo, a Wanagana, come si chiama l'altro, l'Olandese Volante, Federico L'Olandese Volante, poi c'era la Corrida, l'Itparade, la Rai, io mi ricordo ascoltavamo tutti quei canali, cacchio, vai di là adesso ai ragazzini di oggi, dovevi ascoltare apposta la domenica Itparade, Lelio Luzzatti vi presenta Itparade, ricordo come ero fosse oggi piccolino, poi c'era la Corrida di Corrado via radio, bellissima, chiamate Roma 3131, c'erano programmi, mi ricordo a memoria. Tutti quelli che hai nominato me li ricordo, io mi ricordo che mamma accendeva il telegiornale la mattina alle 8, il radio giornale, per ascoltare, invece che la TV accendeva la radio. C'era poi Radio Sardegna, mi ricordo che ti davano i gazzettino sardo, non so se ve lo ricordate, Radio Sardegna è stata una delle prime, per non dire la prima radio che ha dato la cosa della liberazione, hanno trasmesso da una grotta nel coso, nel Supramonte, in quelle zone lì, con un trasmettitore inglese, hanno dato la notizia della liberazione, cioè che l'Italia era stata liberata, per dire, una radio pirata era, Radio Sardegna. No, quella non me la ricordo, ma chiamate Roma 3131, quindi me li ricordo, a Wanagana, mamma non riusciva a dirlo, a Wanagana era il programma, te lo ricordo. E certo, a Wanagana, se non hai gana, Roma stessi, c'era il detto. Il programma era a Wanagana. a grande DJ erano poi innovativi, perché la radio, diciamo, era troppo professionale, eravano, cioè, troppo seriosa. Era Radio Monte Carlo, è stata la prima radio trasmetteva sui 701 kHz. Mi ricordo in particolare era la radio più potente d'Europa all'epoca. Adesso non esiste più quella frequenza, Radio Monte Carlo è passata in diciamo in FM, però all'epoca si ascoltava soltanto la modulazione d'ampiezza ed era sui 701 kilocicli, proprio dicevano, corrispondente a quanti metri, adesso mi ricordo quanto è l'onda, che dicevano corrispondente alla lunghezza d'onda di tale. E di lì si ascoltava, era la prima radio che trasmetteva programmi giovanili, musica commerciale, al contrario della RAI che era soltanto musica di un certo livello, eccetera eccetera. Però era una grande radio, che poi c'era Radio Monte Carlo versione italiana e versione francese, ed è ancora così. Se tu vai in Francia c'è RMC Francia, se tu vai in Corsica l'ascoltano in francese, c'ha due canali, uno francese e uno italiano. No, questo non lo sapevo, però era un bel programma, Wananga la faceva un bel programma, la corrida, seguivo la radio. Mi ha mandato un messaggio, cacchio, questo mi ha ricordato il nome, Fabio Mella senza anima, te la ricordi, che telefonava sempre a Maurizio? Sì. Buonasera, me lo ricordo come se fosse lui. Dice, peccato Fabio, vi sto facendo la ripetizione ai messaggi, la di Fabio dice, peccato che non posso entrare in questo QSO perché lui non ha modo di cose, ci sta solo ascoltando, non può trasmettere perché lui è molto molto inoltrato, a parte che abitava vicino di lì, probabilmente c'è anche vissuto in quella radio che abbiamo nominato prima, molto molto informata anche lui. No, è bello raccontare queste cose, soprattutto poi quando qualcuno ti rammenta altri aneddoti o cose, ma io ora posso raccontare storie sulle radio. Quando c'era mio cugino, che era una cosa allucinante, cosa non si è passato di donne quando era a Radio Uli, voi neanche vi immaginate. Ma io non so le radio perché le conosco tutte, perché ci frequentavo, anche me ne rimorchiavo lì di G. No, ma lui a Radio Uli, io io ci avevo esperienza, per cui ero avvantaggiato, gli ho detto vieni facciamo un provino, e io, lui lo sapeva che io ero abbastanza inoltrato, vieni qua, ho detto no, lascia stare, non mi interessa, io c'ho un altro lavoro, perché di lì ci vedevo certe persone trasmettendo, dicevo mamma mia, cioè mi mettevo le mani in testa, nel senso incompetenti, ignoranti in materia musicale, perché ero molto scrupoloso quando mettevo la musica, cioè non facevo, non ci parlavo solo, cioè seguivo tutte le regole di come si fa, io c'ho ancora le cassette mie dei programmi che facevo io, e quando andavo a fare la registrazione una volta aveva detto no, vieni che ti faccio, andiamo, c'aveva la Diolio di un piccolo studietto dove facevano le registrazioni, e quando l'ha sentito Carlo Borghese di Radio Uli, vieni con me, dai ti facciamo fare un programma, ma tuttora, anche qualche anno fa me l'hanno chiesto, un paio di radio volevano riaprire, una si è riaperto, però ho detto no, lasciamo aprire, ti faccio fare un programma, ti dedichi un programma, te lo scegli tu cosa fare, ho detto no, lascia. Adesso Radio Prisma ha riattaccato come web radio e l'ha presa in mano sempre il vecchio padrone, come si chiama? Non mi viene il nome, comunque del Partito Socialista, quello lì, come si chiama? L'ha presa Fabrizio, uno che ha trasmesso di lì per qualche anno, che probabilmente Rubrofetta lo conosce, ci sei ancora Vanne? Sono qua. L'hai conosciuto tu Fabrizio Umana? Sì. E lui adesso ha ripreso in mano la situazione e sta trasmettendo, come si chiama, in web radio, diciamo in digitale, su internet. No, sono cose interessanti, ormai è abbastanza semplice fare una radio digitale, con niente te lo fai. Questa persona che mi aveva chiesto addirittura ha fatto anche la TV, dedicata però con la parrocchia di Coso, qua vicino c'è la parrocchia, però ha fatto dei bellissimi lavori, anche le dirette televisive, dei Coso, dei approfondimenti, ha fatto delle cose. Questo aveva già una radio a Bonnanaro, Radio K2, infatti molte attrezzature me le ha date lui, sia alta frequenza che bassa frequenza, un po' di dischi avevo comprato, il registratore della bobina me l'aveva venduto lui, un sacco di roba, e si è messo una decina d'anni fa, ci ha fatto una radio web radio, belle, sono molto interessanti, io ne ascolto parecchie. Poi chi c'era di radio? Lasciatemi pensare, di radio prestigiose, anche quella più simpatica, la ricordate Matterland, Radio Matterland? Sì, a Puglia. E poi c'era Radio Sassari International, Radio Sassari International, Radio US Sassari, che trasmetteva quello che era mezzo malato, come si chiamava, Affanap, trasmetteva dal prato comunale nel campo di calcio, c'era la squadra di calcio e il figlio del presidente si chiamava, poi era malato questo ragazzo, Gianmario DC. US Sassari, sì, me lo ricordo. C'aveva un dipolo semplicissimo, un trasmettitore discreto, però si faceva sentire perché non aveva ostacoli, diciamo era più basso di Monte Oro, però di lì era aperto e copriva bene Sassari. Radio US Sassari, Gianmario DJ era tutto balbuziente, si morsicava le parole, non so se ve lo ricordate, forse Gianni il Profeta se lo ricorda. Sì, Radio US Sassari sì, piuttosto... Mi sono ricordato di nome di un'altra radio, Radio Europa 1, vi ricorda qualcosa? Sì, ma ci sono state brevi, quelle sempre radio politiche sono state. Avanti il break. Davide, mi da cacchio, mi sa che diciamo Davide, Fabio sta uscendo malissimo. No, sei tutto bru, quasi non si sente la radio. Dove sei? È QTH dove? Che so? Ma dove abiti tu? E allora Gianni ti dovrebbe ascoltare. Gianni, l'ascolti a Fabio. Io ti sento. Sì, io ti sento. Mi ha detto, arrivo fin giù, non ci credo. Grazie, non parliamo di radio, perché radio è la mia passione da sempre, da quando ero piccolino. Santiago, non ti dico Radio 5, perché ti darei 5 se non fosse tutta impastata, però ti ascolto abbastanza bene. Ok, c'è anche Gianni Rubroffetta, avanti Gianni. Eia, buonasera Fabio, io proprio non ti ascolto per niente, ma questa è l'attitudine, proprio sento il soffio da uscire dalle casse, ma non sento nessuna modulazione. Comunque ti saluto uguale e niente, dai, rilancio il mic a Roberto, Ok, l'hai sentito Fabio Gianni il Profeta? Fabio, ma ti stai aiutando? No, perché la radio non è chiara, capito? Si sente come ti posso dire, satura. Sta arrivando a Santiago 3:30 Radio 1. Però ti ascolto. Sì, sono passati tanti anni, però anche io ero fissato con le radio. Telefonavo molto quando c'erano dei DJ donne. Ma abbiamo detto Radio City Corporation. L'ho detto io, Radio City Corporation era giù in coso, Corso Vittorio Emanuele. E che cavolo c'era? C'era una stessa, non mi ricordo come si chiama. Radio Città di Enrico Polquid era Radio Città, adesso che mi ricordo. Sì, roba sì. C'era Radio Sound, lo stesso era molto ascoltata, dove adesso c'è coso, Bella Vita, c'era Tantam Network, poi c'era Radio 101 di Leonardo Casula, una bellissima radio a stile americano, quello è il più grande DJ che abbiamo avuto. Non l'ho più sentito, il compare poi di mio cognato, una conoscenza musicale fuori dal mondo, l'ho già detto da prima, dall'inizio, è stato quello che ha insegnato a tutti i DJ, diciamo, quelli cosiddetti bravi. Francesco, che era molto famoso a Radio Giovane, era uno dei più ascoltati, l'ha insegnato lui, infatti lui diceva sempre il mio maestro, ma quello lì è andato in America tanti anni, ha lavorato a Radio One di Firenze, una cultura sui Beatles, è un grande collezionista di dischi dei Beatles, c'ha dei pezzi da museo, pezzi che valgono soldi e soldi, registrazioni pirata, quei Beatles così si chiamano, quelle registrazioni pirata fatte di nascosto nei concerti, lui ne ha diverse, è forse la persona più preparata in campo musicale che abbiamo, forse, sicuramente la persona più preparata in campo musicale che abbia mai conosciuto. Poi non parliamo dei Beatles, sui Beatles a livello mondiale, quello andava negli Stati Uniti per cercare un pezzo e cose. Le attrezzature che aveva lui le aveva comprate tutti negli Stati Uniti, apparecchiature americane fuori dal mondo. Non usciva con molta potenza, però aveva trasmettitori e tutti impianti di bassa frequenza eccezionali, tutta roba americana, di radio americane, apparecchi assolutamente all'avanguardia. E trasmetteva di fronte a me, di lì a Carbonazzi c'aveva un dipolo con 100 watt e si faceva sentire, però c'aveva degli stacchetti musicali numero uno, non c'era per nessuno, cioè proprio le musiche, cioè c'aveva le, non dire il classico voce Radio One, lui c'era proprio la musica, lo stacchetto musicale con la musica, e non ce l'avevano tutti, se li faceva fare fuori all'estero, dagli Stati. Stati Uniti, c'aveva degli amici suoi, c'aveva una esperienza radiofonica da paura, tipo, come ho detto prima, se vi ricordate il film Good Morning Vietnam, che trasmetteva quella radio in Vietnam, Robbie Williams, che faceva tutte le vocine, che alla fine l'hanno mandato via quel DJ, perché se ci dicevano almeno che era intrufolato con quelli vietnamiti, con i Vietcong, un grande DJ questo Leonardo, non l'ho più visto da un po' di anni, però era un grandissimo DJ. Però signori, io sto guardando l'orologio, è già a mezzanotte e 20, anche se domani non devo fare niente, però forse vado a farmi un giro col camper, dai, vi devo lasciare, se no domani sono grappizzi. Saluto a Fabio, che è più lontanuccio, nel senso come segnale, anche se siamo vicini, e purtroppo ti sento un po' maluccio, non perché si abbassa il segnale, perché la voce è un po' compressa, non lo so, come hai tu qualche alimentazione. Poi saluto Gianni Rubroffetta, saluto Gianni Doppio Room e tutti gli eventuali amici, che sicuramente ce n'è più di uno in ascolto qua. Ciao ciao, canale 10, da parte mia, correti, credamente ci sente domani. Ciao ciao. Ciao Robert, ciao. Anche io faccio un correttino, saluto tutti. Ciao Rubroffetta, ciao anche a Fabio. Ti auguro buonanotte, buona domenica per domani. Ciao. Ciao a tutti quanti, anche a Fabio, che non riesco proprio a... non riesco a riceverlo, dai, un salutone circolare, come si suol dire, alle prossime, e anche chi ha le cuffie, dai, buonanotte a todos, bye bye. Ciao, ciao, Lupe. Ciao Fabio. Non riesco più a sentirti perché c'è un QRM, sento che parli, ma non capisco cosa stai dicendo. Adesso sei andato il QRM, quindi ti ha coperto la tua radio 1 che avevi, ti ha coperto. Io la radio nuova, la radio number 1. Ciao, buonanotte.